Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi, Europa 24. L'antitrust europea ha aperto due procedure formali su Google, accusa l'azienda di abuso di posizione dominante nel mercato della ricerca su internet e separatamente ha aperto un'indagine formale anche sul sistema Android. Google dunque dovrà rimediare i dubbi europei o rischia una maxi multa. Il tempo per le risposte è di 10 settimane e l'indagine su Google potrebbe estendersi anche ai servizi Maps, Hotel, Flight. Il commissario alla concorrenza Vestager ha spiegato che l'antitrust proseguirà a monitorare la condotta del motore di ricerca. Ed è giunta la risposta di Google. Scrivono su Twitter: con rispetto, ma siamo fortemente in disaccordo. Non vediamo l'ora di presentare la nostra posizione nelle prossime settimane. L'aumento degli sbarchi di immigrati preoccupa l'Unione Europea. 8.500 migranti sbarcati in Italia solo negli ultimi tre giorni, oltre 500 le vittime dall'inizio dell'anno nel Mediterraneo, 30 volte in più rispetto allo stesso periodo del 2014, 500.000, forse anche 1 milione, profughi pronti a partire dalla Libia nei prossimi mesi, cifre impressionanti di un fenomeno inatteso che l'Unione Europea, assicura il commissario per l'immigrazione Avramopoulos, sta seguendo attentamente e con occhi ben aperti. Dobbiamo prepararci ad affrontare una stagione migratoria pesante, ammette Bruxelles. Il commissario Avramopoulos ha già chiesto un incontro con il ministro dell'interno Alfano la prossima settimana, quando verrà in Italia, con l'intenzione anche di visitare centri di accoglienza in Sicilia. Intanto però le organizzazioni umanitarie impegnate nella gestione dell'immigrazione lanciano un appello all'Europa: faccia di più e non lasci da sola l'Italia, soprattutto sul fronte dell'accoglienza, un sistema che ha già avvertito il Viminale al collasso. Christopher Hein, presidente del Consiglio Italiano Rifugiati. Non è possibile di fronte a questa situazione, questi numeri, dire che è una questione italiana e l'Italia deve fare i suoi compiti da sola. Non si può più fare gli annunci di buona volontà, adesso bisogna agire, l'Europa assieme con l'Italia deve agire. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Bilancia commerciale positiva con un surplus di 20,3 miliardi di euro nell'Eurozona nel febbraio del 2015, un dato che fa segnare un incremento del 4% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, lo rende conto Eurostat. Il governo tedesco ha alzato le stime per la crescita della locomotiva europea, stando ad un rapporto per l'Unione Europea varato oggi dall'esecutivo. Nel 2016 sarà una crescita dell'1,6%, precedentemente le attese erano di un più 1,5%. Berlino confida nella solidità dell'economia nonostante la crisi e il contesto geopolitico sfavorevole. Il surriscaldamento, la globalizzazione pongono l'Europa davanti a sfide inedite come quella della xylella fastidiosa. Così il presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, a margine di un incontro con gli europarlamentari italiani oggi a Bruxelles, al quale ha preso parte anche l'ambasciatore Stefano Sanino, rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea. Alle 14:05 minuti vi saluta qui Daniele Biacchesi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.